su tutti. E neanche su tutti? Boh, vai! Questo è un... Ah, dopo ritorniamo comunque. Vabbè, adesso fagli vedere... Ah, fagli vedere in anteprima come cambiano le urla. Ok, vai, scriva da qualche parte. Adesso le urla sono cambiate. È index.php, informazione Joomla HTML. Nel caso si modificasse la HTACES, l'index.php, dove andiamo a finire? Ah, siamo tornati in... ecco, l'index.php si viene eliminato completamente ed eventualmente viene al suo posto o la categoria o la sezione. E rimane, in questo caso, nella configurazione era stato dato che il finale era .html, poi si può far mettere anche .php o anche esserci nessun tipo di estensione. Questo serve per il discorso della migliore indicizzazione di Joomla in Google. Ritornami nel parola di amministrazione, fermo lì. Allora, la mia configurazione globale, scendi un po' giù leggermente. Qui ci sono configurazione, metadata e parola chiave del sito. Metadata, vi devo spiegare cosa sono. In poche parole si mette una piccola descrizione con cui voi volete essere ricercati, cioè proprio poche parole, sono tipo un SMS. E le parole chiave del sito sono il meta keyword, in questo caso sono Joomla, scritta con la J piccola, J maiuscola, insomma massimo 3 comunque ne vanno messe. Questo mostra meta tag titolo e mostra tag autore. Significa che quando voi col mouse destro nella pagina volete vedere l'HTML, vedrete che in ogni pagina c'è il titolo, che sarebbe, c'è questo titolo qua, insieme alle parole chiave e alla descrizione del contenuto che avete inserito. Sono per esempio questo. Ah, anche sì, bravo. Ok, dammi, vammi in pannello di controllo. A che ore siamo? Perché non so... Le 9:40. E ancora 20 minuti. Ho ancora 20 minuti, perfetto. Allora siamo... devo decidermi, siamo... È vero, scusami, volevo fare contenuti e le sezioni. Contenuti, sezioni e categorie lo lasciamo per ultimo perché sembra difficile ma è facile, però molti trovano difficoltà in ciò. Facciamo l'installazione di un nuovo template, in questo caso facciamo l'installazione del template che servirà a Giuliana per il template per Joomla FAP. Sì, sì. Ti ricordo, l'hai messo? Ecco, no, per Joomla FAP. Dovrebbe chiamarsi accessibile. Dentro Joomla FAP. Quello che ti ho dato io nella pennina. Sì, qua, come ti ho fatto? Dammi la pennina, dammi la pennina, la trovi lì, guardami, la pennina, ok, torna indietro, ok, Joomla FAP, eccolo qua, c'è con, qual è? Template accessibile 81 abbiamo, giusto, va bene? Aspetta, no, è più avanti, ma comunque si può mettere più quello? Va bene, ok, ho trovato quello là. Dopo lei vi dirà dove andarli a trovare sia i template, che i componenti, che i plugin per Joomla FAP. Ecco, abbiamo messo il template, carica file, installa, automaticamente, stessa cosa succederà online, non è che è installato correttamente. Nel qual caso ci siano problemi di installazione per non chissà quale motivo, decomprimete la cartella del template e mettete nella cartella di Joomla dei template e mettete la stessa cartella decompressa. Adesso installiamo... Ecco, le installazioni si fanno sia template che plugin che componenti con lo stesso, attraverso lo stesso installa e disinstalla, mentre nella versione 1.0 c'erano diversificazioni. Installa, sfoglia. Cosa installiamo adesso di il componente Access Key? Vai. Se vuoi, se no si fa vedere anche dopo, che faccio vedere anche l'aggiornamento. Come si aggiorna? Installiamo un altro template. Vabbè, se no mettilo su. Installiamo un altro template, vai. Ah, no, tieni un po' componenti, quello te l'ho dato, quello del... Che gira, cos'è? Global News. Global News, eccolo là, sì. Questo è un componente simpatico che serve per avere le news che girano in continuazione, che... lo potete mettere sul modulo o su... O su sì, lo potete mettere su, lo dovete mettere sul modulo. Ah, mi sono dimenticata di dirvi, adesso attiviamo un template e poi dopo vi dico la caratteristica dei template di Joomla. Modificami un template. Adesso vi faccio vedere come si fa a modificare i template. Adesso abbiamo caricato due template, mettiamo quello tuo, quello che hai messo. Quello che non ho messo. Ah, quello non hai messo. Fagli vedere l'accessibile. Fai vedere l'accessibile, dai, installa, seleziona template, mettiamo l'accessibile, come di default. L'hai messo? No, installalo. Ah. Cioè, attivalo. Scusami. Questo è predefinito, adesso lo vediamo. Noi prima l'abbiamo caricato, fai anteprima, ok? No, è aggiorna. Questo è l'accessibile di Joomla Fatto. Sembra molto spartano, ma in realtà poi si può modificare. Si può modificare qui in alto. Allora adesso spieghiamo perché il template di accessibile si può vedere forse meglio che da altri template che magari hanno più disegni e grafica. Questo è il modulo delle header, ok? Questo è il modulo di sinistra. No. Questo è il modulo di sinistra, questo è il modulo di destra, questo è il contenente ending, più sotto abbiamo il footer, ok? E questo è un modulo user 1 o user 2. Perché vengono chiamati moduli? Perché qualcosa di CSS, di div, ne sapete? No, vabbè, ok. Fate. Uno solo ha detto di sì, allora adesso semplifico cosa possono essere i div. Poche parole sono dei blocchi che vengono creati scrivendo aperta parentesi angolare div con le caristiche, per esempio div user 1, div user 2, e poi chiudendolo all'interno dei div gli si dà l'ordine attraverso linguaggio PHP, gli si dà l'ordine di inserire i contenuti, i moduli o le notizie. Allora, in questo caso appunto abbiamo il modulo ultime notizie, moduli più letti, che è user 1 o user 2 forse, vai su, e il footer è questo sotto, e poi dopo il modulo di destra e il modulo di sinistra, e in alto i header. Adesso questo modulo qua, si vedono i link ai contenuti, perché il modulo è gestibile, e si può scrivere, cioè si può scegliere se attivarlo in forma orizzontale o verticale. In questo caso è verticale. Ok, benissimo, andiamo all'amministrazione. Adesso possiamo passare a... Dove modificarlo il template? No, non lo modifichiamo il template. Cioè, oddio, si potrebbe anche fare, però non l'ho mai visto, quindi non so come che funziona. Via backend si può fare? Sì, le modifiche, okay. Ma non così velocemente, sì. Bisogna andare nel CSS. Allora, io faccio finta che sia un modulo, cioè un template classico, non quello per FAP. Andiamo dentro all'accessibile, modifica, qualsiasi template è gestibile così. C'è il, da poter entrare via HTML, si possono modificare, poi va, entra dentro, scendi giù e qui ci sono, scendi proprio in giù, qui su quante le varie, qui ti fermo lì, e qui si possono modificare i nomi, sì, questo è l'HTML che risulta nel file index.php del template. Andiamo a vedere dove sono i file, dove sono i file del template, nella cartella dei file del template. Template. I file si installano qui dentro, vai dentro inaccessibile. Posso dire una cosa, esperienza personale, diciamo che vai a toccare queste cose dopo dopo che hai preso abbastanza dimestichezza. Sì, con... sì, ma non facciamo, non tocchiamo niente, adesso non faccio subito. Guarda, lì avete il layout del template, lo vedi quello? No, quell'altro. Quello blocchi, sì, quello lì. Apri un po' che così si vedono bene i blocchi, si capisce com'è disposto. Ecco, lì dentro ci sono i file del template, basta appunto, non volevo dire altro. Eccolo lì, vedete? In alto il banner, quello che vedevamo prima in blu. Poi sotto l'user 3 lì c'è lo spazio per mettere altre cose. Poi c'è il blocco left di sinistra, dove c'erano dei menu, e il blocco right di destra, dove ci possono essere degli altri menu. Il main body è il blocco centrale, dove c'è il testo principale, quello che uno guarda. Che comunque bisogna sapere questo. Sotto il footer è dove di solito si mettono le indicazioni utili per il sito, tipo... Anche il link comunque, non c'è problema. È il tallone d'Achille. Ma dai! User 1 e user 2 è quello che vi diceva lei prima, che sono quei due pezzetti, se non so se vi ricordate, che ha detto questo è user 1 e user 2. Che poi non necessariamente si deve mettere i più letti o i meno letti, non necessariamente si può deve mettere gli ultimi inseriti, si possono mettere qualsiasi altri, qualsiasi tipo di moduli. Andiamo, allora avete visto, sono le cartelle, il template si installa lì. Benissimo, lui mi ha ripreso, mi ha detto è troppo difficile, bisogna spegnere alla fine, hai ragione. No, dico perché veramente siamo addentrati nel codice HTML. Tu all'inizio hai detto una cosa fantastica, che questo programma, che è un software open source, spesso si è aiutati ad usarlo al meglio quando si ha un minimo di base HTML, quindi per i vecchi, tra virgolette, programmatori o chi faceva siti in HTML è super avvantaggiato, chi invece inizia da zero e deve basta metterci... così basta così, fare così, sì, deve metterci le mani, diventa già più... no, ma io non volevo far vedere le mani, volevo far vedere dove erano, che si poteva mettere le mani in back end. Un altro punto, mi ritorni nel, eccolo lì, poi si salva, ma rimani sempre in... questo è il file HTML, salva o applica, per quello che volete, non abbiamo fatto niente. Si possono anche modificare attraverso il CSS, lì si modificano i CSS, si modificano, per entrare dentro, vabbè, fai uno solo per far vedere, qui si cambiano, no, questo è il capo che non dice niente, qui si cambiano alcune cose che non si possono cambiare attraverso meccanicamente, adesso vi mostro la parte più semplice. No, sì, ho beccato quelli più... ok, no, ma per questo qui è quello accessibile. Allora, entrami dentro sempre nel... E prova... No, ma allora... Allora, in questo qui c'è la possibilità di cambiarlo solo da white o da black. Sì. Fammi uno Ricky non so che. Voglio sì, un template Ricky. Sì, l'altro. E me lo rendi... No, c'è già installato. Ah. Ricky Way. Fai predefinito. Ok, la facilità di Joomla è che la maggior parte di template che si possono trovare, sia gratuiti che anche a pagamento, si possono modificare in back-end molto facilmente. Vammi nel modifica template, ecco la modifica. Come? Oltre che attraverso il CSS. Qui in questo caso possiamo... fare o verde con lo sfondo rosso, vai. Poi qui c'è fluido massima estensione, medio o piccolo. Fluido significa che arriva più, non più di 1050. Fluido massima estensione invece mi arriva al massimo estensione del monitor dell'utente. Gatto piccolo e medio significa 800 o 900. Ecco, questo adesso l'ha cambiato, ha cambiato lo sfondo che è rosso e tutta questa parte qui verde. In altri, adesso ne avremo un altro bicolor, se velocità lo fai. Va bene, fai veloce. Allora, intanto anche gli acuriti apparecchi settanti. Sì? Sì, ok, vai. Quello è finito. Sì. Volendo si può anche impostare un template per pagina. Sì, vedi che ne ok, qui adesso gli appuriti si può cambiare al posto del logotipo che c'è l'immagine, si può lasciare solamente il testo. Facciamo vedere un po' com'è. Cose? Gli appuriti. Ah sì, scusa. È questo, il logo immagine. Il logo immagine si cambia, si toglie via, si può. Tanto il testo del logo bisogna testo al logo si può scrivere.